Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiamo dalla notizia più forte per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, chiaramente, e mi riferisco alle stime sulla crescita, perché in questi giorni abbiamo visto, da un lato, ieri l'OCSE dire l'Italia crescerà un po' di più e andrà allo 0,7% invece che lo 0,6, il governo stimare in uno 0,9. Oggi il Centro Studi Confindustria stima una crescita per il 2015 dell'1%, che è una crescita ancora non sufficiente, ci mancherebbe, nessuno sta festeggiando. Faccio notare che il presidente di Confindustria Squinzi dice l'obiettivo è una crescita, dobbiamo puntare al 2% annuo, ma visto che in precedenza a giugno sempre le Centro Studi Confindustria aveva rivisto a rialzo lo 0,8, questo 1% è obiettivamente un segnale positivo. Sul 2016 la stima di Confindustria è dell'1,5% di crescita del PIL. Faccio notare che il PIL acquisito, quello che abbiamo già portato a casa nei primi sei mesi dell'anno, è dello 0,6-0,7%, quindi basta crescere, tra virgolette, non dico poco, ma secondo le attese, per portare a casa l'1%, anche perché se si immagina un 2016 più forte del 2015, vuol dire che tutte le previsioni sono di un'economia italiana che entra nel 2016 in rialzo, se no non ti giustifichi l'1,5% l'anno dopo. E quindi ragionevolmente l'1% diventa una stima credibile sulla crescita quest'anno. Per quello che riguarda le altre stime, vale la pena far notare che Confindustria parla anche dei posti di lavoro creati nel 2015, che si creeranno e che sono stati creati nel 2015-2016, 494.000 posti di lavoro come risultato degli sgravi fiscali, quindi la decontribuzione per i neoassunti a tempo indeterminato e il Jobs Act. Fa però notare il Centro Studi Confindustria che mancano l'appello sul 2007 ancora 280.000 occupati, cioè ammesso che queste previsioni vengano confermate a fine 2016 mancheranno ancora 280.000 occupati, ossia 280.000 occupati in meno rispetto al 2007. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, anche perché questi dati vanno a saldarsi invece con una stima della crescita dell'area euro che secondo la Banca Centrale Europea sarà un po' più bassa quest'anno, complessivamente l'1,4% contro l'1,5%, l'anno prossimo l'1,7% contro l'1,9%. L'inflazione continua a essere sotto anche quello che è l'auspicio della Banca Centrale Europea. Sappiamo che la Banca Centrale Europea vuole un'inflazione intorno al 2%, né troppo sopra né troppo sotto. In realtà le stime diffuse oggi vedono un'inflazione nell'area euro per il 2016 ancora all'1% in ribasso rispetto all'1,5% e anche all'1,7% nel 2017. E quest'anno praticamente non dico che siamo in deflazione, ma ci andiamo molto vicini. L'inflazione media nell'area euro oscillerà tra lo 0,1 e lo 0,3% come aumento dei prezzi al consumo. Allora, c'è qualcuno che dice non avete un minimo di dignità, lo dico ogni volta agli ascoltatori, non ha senso festeggiare, dire oh è cambiato tutto per l'1%, ma non avrebbe neanche senso dire che non è cambiato niente se tu becchi i primi trimestri di crescita economica dopo 13 trimestri di cali consecutivi del PIL. Cerchiamo di essere obiettivi e non fare sempre un tifo calcistico, cresciamo da Dio oppure no, non è cambiato nulla, non sono ragionamenti, si ragiona sulle cifre e queste sono le cifre. Per quello che riguarda le stime di crescita, ripeto, fermo restando che lo 0,6% l'abbiamo già portato a casa. Questo è il tema della seconda ora. Nella prima ora altri temi che riguardano da un lato il settore agricolo, avevo promesso di fare un approfondimento sul settore agricolo e vitivinicolo e anche su operazioni, uno può chiamarle minori, ma insomma, mica tanto, perché ci sono operazioni che riguardano anche non il vino ma il settore della birra. Per quello che riguarda la borsa invece, più 0,17% Milano in questo momento e più 0,24% Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,45%. Per quello che riguarda l'euro sul dollaro è a quota 1,13 il rapporto di cambio euro-dollaro. Tra i titoli segnalo che va particolarmente bene Autogrill più 4,80, poi Atlantia più 2,10, Moncler più 1,80, Pop Milano più 1,5, Luxottica più 1,1 come Buzzi Unici e Medexor, l'1% lo guadagna Intesa San Paolo. Fronte opposto, Popolare Emilia Romagna meno 2, Monte dei Paschi meno 1,60, CNH meno 1,1%, poco mosso come sentite oggi il mercato. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Mi chiedono giustamente della Fed, del FOMC, del Federal Open Market Committee. Alle 20:30 ora italiana ci sarà la decisione sui tassi. Abbiamo fatto ieri un approfondimento, un ennesimo approfondimento sul tema. Ripeto, in questo momento le stime sono 50-50, alla pari. Metà ritiene che la Fed aumenterà, inizierà a aumentare i tassi dello 0,25%, un'altra metà degli analisti ritiene che questo non avverrà perché le condizioni non sono ancora pronte, perché c'è il rischio Asia, per le pressioni di Wall Street, per tutte le cose che abbiamo raccontato anche ieri. Faccio notare che per quello che riguarda l'inflazione europea dell'area euro, ancora troppo bassa. Perché è negativa l'inflazione troppo bassa per la Banca Centrale Europea? Perché segnala consumi ancora deludenti, segnala un'attività economica che non è ripartita appieno. Quando l'attività economica riparte in maniera virtuosa e sana, un po' di inflazione la porti a casa, e invece lo 0,1-0,3% vuol dire un'area euro ancora, non dico stagnante, ma molto vicina. E la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che, se necessario, utilizzerà tutti gli strumenti disponibili nel suo mandato, e in particolare modo la flessibilità del quantitative easing, quindi l'acquisto di titoli di Stato stampando euro, mettiamola così. Perché questo? Perché dice, se l'inflazione non riparte, continueremo a dare flussi di liquidità al mercato dell'area euro. Dunque, quello che abbiamo perso di PIL rispetto all'inizio della crisi, beh, lo ricordiamo spesso, nessuno sta festeggiando, però. Abbiamo perso sulla produzione industriale, siamo ancora qua a oltre il 20% in meno rispetto al periodo pre-crisi, che vuol dire, se vogliamo dare un'immagine plastica, che è come se fosse scomparso nel paesaggio industriale di questo paese un capannone su 5. Quindi nessuno sta festeggiando, abbiate pazienza, ma neanche fare tafazzi quando i dati iniziano a essere modestamente, cautamente, ma positivi. Una buona notizia arriva dalla Grecia. Domenica si vota, avremo tutti i collegamenti nel GR24, la nostra inviata Valeria De Rosa ad Atene. I sondaggi indicano ancora un testa a testa tra Siriza e Neodemocrazia, quindi tra Tsipras e Neodemocrazia. Oggi è uscito un dato che riguarda la disoccupazione greca. Secondo l'agenzia statistica ellenica Elstat, il tasso di disoccupazione è sceso dal 26,6% al 24,6%, anche qui è ancora altissima, ma sono 2 punti percentuali in meno. Interessante che sempre nel secondo trimestre sia scesa anche la disoccupazione giovanile, che è a una cifra abnorme, 52% era in Grecia, ma è scesa al 49,5%. Uh, Allora, grazie, dice la cancelliera tedesca Angela Merkel oggi inaugurando ufficialmente il Salone dell'Auto di Francoforte. Grazie all'industria dell'auto abbiamo una crescita buona e stabile in Germania. Ma poi aggiunge, saldando anche il grande tema dei migranti e della tragedia dei rifugiati, i costruttori di auto diano opportunità di lavoro ai rifugiati. Un appello accolto da un lungo applauso di Angela Merkel, appunto, al Salone dell'Auto. Vogliamo aiutare chi ha diritto alla tutela, chi viene solo per motivi economici deve lasciare il paese. Quello che viviamo con i rifugiati dobbiamo vederlo con ottimismo. Tra l'altro il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha convocato per il 23 settembre prossimo un Consiglio europeo straordinario per discutere su come trattare la crisi dei rifugiati e sugli aiuti che l'Europa può dare ai paesi di vicinato. Il commissario europeo Johannes Hahn ha affermato: voglio che gli stati membri contribuiscano di più, almeno quelli che fanno continuo appello ai nostri fondi, pacchetti di aiuto e altro. Qualche volta ho la sensazione che la gente pensi che siamo dei bancomat e che se hai il codice puoi prendere i soldi. E a questo proposito si fa sempre più concreta l'ipotesi del miliardario egiziano Naguib Sawiris di comprare un'isola greca da destinare ai profughi. Sawiris ha annunciato su Twitter di aver identificato due isole adatte allo scopo. Lui ha un patrimonio stabile di 3 miliardi di dollari e ha già messo a disposizione 100 milioni di dollari. Le due isole verrebbero chiamate Islands, in onore appunto di Aylan, il piccolo siriano morto in mare, la cui foto chiaramente è girata in tutto il mondo e ha fatto commuovere in alcuni casi anche in ritardo, in maniera un po' ipocrita, tutto il mondo. Comunque, le due isole resterebbero sotto la legislazione greca e potrebbero accogliere tra i 100.000 e i 200.000 profughi. Un progetto così un po' lascia, non dico perplessi, però bisogna capire se diventerebbero delle isole, non so come chiamare, dei campi di raccolta, insomma bisogna stare attenti. Però Sawiris dice che vuole andare avanti su questo. Nel frattempo spostiamoci in Italia. La maggioranza del Consiglio regionale Lombardo, quindi Forza Italia, Lega Nord e Nuovo Centrodestra, ha votato un emendamento della riforma del settore turistico che prevede la penalizzazione degli alberghi che ospitano migranti. Chi lo fa non potrà più partecipare a bandi regionali né ricevere fondi stanziati per il settore. La norma è passata in versione soft. La Lega proponeva infatti anche multe da 10.000 euro e la sospensione dell'attività per un anno. E quindi la norma afferma la possibilità di accedere ai bandi di finanziamento regionale solo qualora il fatturato ricavato dall'attività ricettiva degli ultimi 3 anni sia integralmente derivato dall'attività turistica. Come dire, se tu hai ricevuto i finanziamenti dello Stato per accogliere i migranti, questo non è frutto della tua attività turistica privata, non potrai accedere ai bandi di finanziamento regionale. Ora, al di là del fatto che sulla tenuta di questa legge regionale vi vorrei vedere i primi ricorsi al TAR come andranno, comunque il nostro Simone Spezia ha intervistato nel corso di Effetto Giorno il presidente di Federalberghi Lombardia, Paolo Rossi, che si definisce piuttosto avvilito dalla norma. Sono piuttosto avvilito da questo emendamento 72, anche perché a mio avviso c'entra un po' con i cavoli a merenda con un progetto di legge regionale sul turismo che ha tutt'altri scopi, tra cui anche la programmazione del turismo lombardo per i prossimi anni. Si tratta di una legge importante, insomma, che mettono le basi per il futuro del turismo lombardo. Mettere questa cosa è piuttosto meschina, ecco. Meschina addirittura. Senta, ci sono alberghi che secondo lei rischiano di non reggere, per così dire, di fronte a questa norma, di non farcela più economicamente, dico? La formulazione di questa norma è piuttosto sibillina perché parla di alberghi confiscati, mentre invece devo dire, per quanto mi risulti, non c'è nessun caso di confisca d'albergo da parte delle prefetture o da parte del Ministero degli Interni. Sono stati chiamati degli albergatori che volontariamente hanno prestato le loro strutture a questa emergenza. Ecco. Secondo lei ci sono alberghi che rischiano di chiudere a causa di questa norma? Ma probabilmente sì, perché non poter accedere ai finanziamenti significa non poter ristrutturare, non potersi innovare e non poter andare avanti. Parliamo poi di alberghi che già erano in crisi di suo per la crisi finanziaria del 2008, insomma. Vedremo che io penso insomma che ci sia un parecchi elementi di dubbio dal punto di vista anche perché gli albergatori non è che lo fanno, cioè gli viene chiesto di ospitare questo, in cambio hanno, ci mancherebbe altro, una compensazione economica, cioè anche perché se questa legge venisse estesa a altre regioni, ma voi immaginate cosa sarebbe successo in Abruzzo dopo il terremoto dell'Aquila, cioè. Allora, se estendiamo al fatto che tutte le volte che tu hai un introito non derivante dal fatto che ti paghi la camera, ma dal fatto che la regione o lo Stato ti dia una compensazione economica, si rischia il caos. Comunque, staremo a vedere. Andiamo avanti con le notizie. Oggi il presidente, in tema di migranti, il presidente Confindustria Squinzi è tornato sul tema. Sottolineando che occorre creare la soluzione è creare lavoro nei paesi, qui si parla dell'immigrazione, diciamo quella che colpisce più l'Italia, non i rifugiati siriani, ma l'immigrazione soprattutto per motivi economici. Il problema immigrazione va risolto in altro modo, ci sono 100 milioni di africani che vogliono venire in Europa e noi non siamo in grado di assorbire questo flusso, occorre creare le condizioni di lavoro e crescita in quei paesi, è l'unica soluzione. E sicuramente gli immigrati entrano nel nostro paese, entrano e nella maggior parte dei casi, come tutti sappiamo, vedono il nostro paese come una base di partenza per andare verso altri paesi e questo sicuramente non credo che possa dare una spinta alla nostra economia, però per me sono due cose distinte. Dall'altro lato credo che il problema dell'immigrazione vada risolto in un altro modo. Vorrei ricordare, per chi non lo sa, che personalmente ieri sono entrato, abbiamo fondato insieme con Letizia Moratti e Pietro Salini una fondazione per promuovere l'imprenditorialità nei paesi dell'Africa, perché io credo che la soluzione di questo problema, perché se è vero quello che alcuni osservatori hanno riscontrato, ci sono almeno 100 milioni di persone in Africa che in questo momento vorrebbero venire verso l'Europa e entrare in Europa. Ecco, noi non siamo, secondo me, non siamo in grado di sostenere un urto migratorio di questo tipo. Allora, 17:27 minuti, iniziamo con i dati economici italiani. Oggi, tra le altre, ci sono anche ottimi dati sull'export agroalimentare, di nuovo, nei primi 7 mesi, di nuovo lo dico in maniera positiva, l'export agroalimentare ha già toccato i 21 miliardi di euro e il ministro Martina ha fatto notare siamo in linea con l'obiettivo di raggiungere i 50 miliardi nel 2020. Bene l'export a luglio, soprattutto rispetto a un anno prima, più 6,3%, le esportazioni in questo caso in generale, sono cresciute in Germania del 2,2%, in Francia del 2,5%, le nostre esportazioni in Spagna più 10%, Gran Bretagna più 7,5%, Stati Uniti più 23%, bene anche nei paesi OPEC, nonostante il basso prezzo del petrolio più 9%, Cina più 4%, per cento, delude il Giappone meno 4,5% quanto a export italiano. E però, visto che la notizia più forte, poi la riapprofondiremo, riguarda le stime della Confindustria sulla crescita economica, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, la firma di oggi del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Oggi il centro studi della Confindustria ha rivisto al rialzo le stime di crescita. Il prodotto interno lordo quest'anno aumenterà dell'1%, prima si prevedeva lo 0,8%, e nel 2016 la crescita sarà dell'1,5%. Questo miglioramento, questa è una cosa sicuramente importante, avrà un impatto positivo sul mercato del lavoro, con la disoccupazione in leggero calo e soprattutto con 500.000 nuovi posti di lavoro creati tra il 2015 e il 2016. Le previsioni di Confindustria precedono quelle che domani darà il governo con la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Le previsioni del governo, tra l'altro, saranno leggermente più basse, più caute di quelle di Confindustria, con una crescita del PIL che dovrebbe essere pari allo 0,9%. La cosa importante da capire però è se questo nuovo scenario possa far parlare di vera ripresa. L'economia sta davvero tornando in salute. Il punto è che questo miglior andamento dello scenario economico dipende essenzialmente da fattori esogeni, da fattori esterni, i benefici legati al crollo dei prezzi delle materie prime, in testa il petrolio, oppure l'indebolimento dell'euro rispetto al dollaro che sta aiutando le esportazioni, oppure ancora i tassi di interesse che restano ai minimi storici. Tanto basta per dire che la ripresa economica c'è, ma resta fragile e resta modesta, soprattutto se ci ricordiamo quanto è stata pesante la crisi di questi ultimi anni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, dicevo, l'export agroalimentare, vedo un ascoltatore che mi dice: ma perché non citate i dati della Caritas, il raddoppio dei poveri, 4 milioni di poveri assoluti? Abbiamo fatto un intero approfondimento su questo, abbia pazienza, a inizio settimana, e abbiamo anche citato il commento abbastanza caustico della Caritas, che ha detto il governo Renzi ha preso iniziative marginali su questo, per cui sostanzialmente non si è discostato, cito a memoria, dall'alveo e da quanto fatto dai governi precedenti, e quindi che poco o nulla hanno fatto per la parte più povera della popolazione. Adesso non è che devo ricordare ogni giorno il rapporto Caritas, che ha fatto notare come si sia fermato il numero di poveri assoluti al 7%, ma che il numero di poveri assoluti in questo paese, cioè 4 milioni e passa, sia il doppio di quelli presenti prima che scoppiasse la crisi, cioè fino al 2007. Non nascondiamo nulla, casomai la colpa è di non vedere le notizie delle volte, ma non ed è colpa nostra, ma non è che le nascondiamo. Allora, dicevo, l'export agroalimentare, vorrei toccare una delle voci più importanti, forse la voce più importante quando parliamo di export agroalimentare, il settore del vino, ma aggiungevo anche la birra, così respiriamo un attimo, poi ci spariamo tutti i dati economici della Confindustria. Perché ci sono degli ottimi dati anche nell'export della birra italiana. Ora, chi l'avrebbe mai detto che riusciamo a fare concorrenza se vi dicessi che abbiamo esportato birra in Germania in aumento del 37%, voglio dire, e anche in Gran Bretagna, è un altro successo. Comunque, partiamo dalla vendemmia che si è appena conclusa. E allora, Giuseppe Martelli, direttore di Ass Enology, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Ce l'abbiamo fatta, Martelli, 2 giorni che volevo fare questo approfondimento e poi tutti i giorni capitava qualcosa. Allora, visto che ha aspettato 2 giorni, aspetti ancora 4 minuti, ho il meteo e la pubblicità e poi ci racconta, non mi dica che la vendemmia è ottima, di ottima, buona qualità, che lo dite sempre. Voglio sapere realmente se ci riporterà le prime posizioni e dov'è che ha i suoi punti di forza. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. ...17:39. Allora, Martelli, mi dica che annata sarà No, non ho detto che la vendemmia è tutta conclusa, ho detto che la vendemmia va verso la conclusione. Allora, Kevin Demia sarà 47 milioni di ettolitri, più 12% rispetto ai 42 milioni dell'anno scorso, che però fu la vendemmia più scarsa dal 1950. È vero che torneremo, se confermati, al primo posto a livello mondiale? Ma sì, però il problema non è produrre tanto, è saper vendere bene. E quindi se si vende bene con due cose: se hai la materia prima, e veniamo alla qualità di questa vendemmia, certo, e se hai la rete commerciale, il marketing, le dimensioni per affrontare certi mercati. Quindi, allora, partiamo dalla prima. Ecco, rispondendo alla prima domanda, diciamo che sicuramente il millesimo 2015 ha una marcia in più rispetto alle ultime annate. Perché? Perché si sono verificati dei momenti un po' in tutta Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, che alla vite hanno giovato più dell'andamento climatico che si è verificato negli anni passati. Non parliamo dello scorso anno, perché tutti lo ricordiamo, siamo annegati, diciamo così, nella pioggia e negli sbalzi di temperatura. Per quanto concerne la quantità, sono previsti tra i 46 e i 47 milioni, perché adesso essere precisi su, diciamo così, su un quantitativo è un po' sparare dei numeri, e quindi può darsi che i francesi producano meno. Però, come dicevo prima, la nostra soddisfazione è la qualità, e quindi quest'anno potremo avere una marcia in più, come prima sottolineavo, per presentarci sui mercati internazionali con un prodotto sicuramente che ha dei numeri e quindi non teme la concorrenza di nessuno. Sì, infatti la Francia sta stimando una produzione di 46 milioni e mezzo di ettolitri, meno uno, siamo lì. Adesso non è il problema, produce più l'Italia, produce più la Francia. Ha ragione lei, la qualità, le diceva, migliore di quella dell'anno scorso per le condizioni climatiche, visto che dopo commenteremo il successo della birra italiana, che è un successo anche, oltre che anche qui, di prodotto di qualità, di capacità distributiva, di presenza sui mercati. Ecco, il valore a cui andremo a vendere questo vino, dal suo punto di vista, sarà un valore in crescita? Perché sennò, appunto, dei volumi ce ne facciamo relativamente poco. Ah, guardi, il vino italiano, basta guardare i numeri, no? Gode di ottima salute, in particolar modo proprio sui mercati stranieri. Quindi le nostre esportazioni, nonostante i prima citati 7 anni di crisi, sono continuate a crescere, raggiungendo, diciamo così, dei traguardi che forse fino a qualche anno fa non erano neanche sperati. Gli ultimi dati in mio possesso dicono che i primi quattro mesi, i dati dei 6 mesi che stiamo elaborando, danno una crescita di quasi il 4% sullo stesso periodo del 2014, con un quantitativo inferiore di qualcosa in più del 2% nei volumi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che esportiamo un po' di meno, ma guadagniamo molto di più, il che significa che esportiamo bottiglie con maggiore valore aggiunto in paesi dove il vino viene recepito come un, diciamo, bene edonistico di qualità. Che cosa manca al settore? Diciamocelo tutta, tanto lei non è un produttore e può parlare, non che i produttori parlino in maniera vincolata, però insomma può parlare da osservatore esterno. Manca ancora un lavoro serio di marketing. Allora, noi abbiamo visto per esempio che se rallentano alcuni mercati, è ripartita per tutto l'export agroalimentare, non solo per il vino, è ripartita da un po' l'America. Il dato di oggi a luglio, più 23% rispetto all'anno prima, l'export agroalimentare, l'export in generale italiano negli Stati Uniti, e non fa eccezione a quello agroalimentare. Che cosa manca ancora al settore? Ma diciamo che questi discorsi di miglioramento della comunicazione, del marketing, che oltre a saper produrre bisogna anche saper presentare, bisogna anche saper vendere, come dicevamo prima, l'Italia anche su questi fronti, secondo il mio modesto parere, ha fatto dei passi da gigante, tanto che è riuscita a raggiungere certi livelli di invidia da parte di altri concorrenti, non diciamo quali. Ma il discorso di fondo è di un sempre maggiore lavoro di squadra, e quindi forse perché noi discendiamo dai comuni, quindi dai campanili, e non discendiamo da rivoluzioni particolari, vale sempre quello che io dico da diversi anni, creandomi qualche nemico in più, che in certe zone, in certe regioni, oltre a potare le viti, dovremmo potare molti campanili. Quali regioni? Beh, un po' in tutte, ogni zona è migliore dell'altra. Ogni prodotto che tira deve essere non incrementato, ma deve essere scimmiottato da un altro vicino, eccetera, eccetera. Questi discorsi a livello nazionale non contano, però all'estero creano una certa confusione. Ma questo vale anche per il boom del Prosecco, che è il vero grande... No, diciamo. il Prosecco, la Regione Veneto ha fatto un'operazione, secondo me, unica e forse irripetibile, cercando appunto di blindare questo prodotto che, ricordiamoci, è un prodotto tipico, autoctono, che però proprio perché era un prodotto che tirava, cominciava ad essere sempre, io uso questo termine, mi scusi noi radioascoltatori, scimmiottato in Italia e all'estero. Loro hanno saputo creare una barriera di difesa attraverso delle DOC che oggi come oggi salvaguardano non solo il nome ma anche praticamente la qualità di questo meraviglioso vino, che consente ai nostri spumanti di essere primi in certi mercati. Non dimentichiamo, a proposito dei dati di Confindustria dell'agroalimentare, che in alcuni mercati importantissimi per noi, tipo gli Stati Uniti d'America, il Canada e anche in Giappone per il settore del vino, i prodotti derivanti dalla vite, quindi dai vigneti, in certi momenti hanno rappresentato anche più del 30% delle nostre esportazioni di tutto l'agroalimentare. E di conseguenza, al di là dei valori che forse non possono competere con altri settori primari, però noi sappiamo che il vino è una bandiera che sventola, aggrega, unisce. Beh, devo dire che avrete anche un aiuto, come tutto il settore agroalimentare, appunto l'export, da un euro che resterà forse anche più basso, vedremo cosa deciderà la Federal Reserve stasera, ma sicuramente non tarnerà i livelli dell'anno scorso, e quindi questo vi aiuterà in quei mercati di sbocco, fermo restando che la guerra non si può fare solo sui prezzi e che il ragionamento dell'euro vale anche per i concorrenti francesi e spagnoli in primo luogo. Grazie al presidente di Assenology, ma io resto sul tema perché quindi grazie a Giuseppe, al direttore di Assenology Giuseppe Martelli. So benissimo che la vendemmia non è finita in tutto il paese, l'Italia è lunga, c'è chi dice troppo lunga, è inutile che mi scriviate che in Friuli si sta ancora vendemmiando, si deve ancora iniziare a vendemmiare, in Sicilia hanno già finito, stiamo facendo un bilancio, non è che possiamo aspettare l'ultima vite dell'ultima provincia, dell'ultima regione che vendemmia. Dicevo, ci sono delle cifre clamorose per un settore che noi spesso, non dico snobbiamo, ma non prendiamo nella dovuta considerazione. 4 miliardi di valore, 136 mila persone occupate e export in crescita del 3,5%, è il settore della birra, e di questo vorrei parlare, non per fare una puntata etilica, ma perché ci sta bene il tema, dopo il traffico. Focus Economia. Dicevo, 4 miliardi di valore, 136 mila persone occupate, con un 44% delle aziende disposti a investire in nuove assunzioni, ma con un problema che si è chiamato nel 2014 l'aumento delle accise. Stiamo parlando della birra italiana perché i dati che sono arrivati sull'export nei primi 6 mesi dell'anno, appunto nel tema dell'agroalimentare, beh, insomma, hanno visto aumentare le nostre vendite del 37% in Germania, del 5% in Svezia e del 3% in Gran Bretagna, particolarmente nei pub. Filippo Terzaghi è direttore di Assobirra, buonasera. Buonasera a voi. Voi rappresentate appunto il 98% della popolazione, delle produzioni. Mi chiedono gli ascoltatori, beh, basta che non siano solo i grandi marchi delle multinazionali, a parte il fatto che a me non interessa, perché se una birra è fatta e prodotta in Italia, che appartenga a un grande gruppo o che sia un piccolo gruppo, a me interessa che la produzione, il lavoro e il valore aggiunto si realizzi in Italia. Comunque, mi dica se sono solo i grandi marchi che hanno la forza commerciale oppure questo fenomeno si estende anche ai piccoli birrifici. No, si estende a tutti. Nel mondo della birra siamo in tanti ormai, sono tantissimi produttori. Abbiamo in Italia quasi 700 produttori di birra, Poi è chiaro che i piccoli hanno una quota di mercato molto meno rilevante, fanno prodotti più di nicchia, però anche loro esportano. Ci sono vari fra i piccoli produttori che riescono ad arrivare al 10, 20, 30% delle loro esportazioni. Poi ovvio che la conquista dei mercati esteri, ma questo in qualsiasi settore, è più facile farlo per chi ha le spalle sufficientemente grandi per poter avere un ufficio export, per avere gente che parla le lingue, per avere anche una disponibilità in tutti i momenti dell'anno di prodotto da vendere, da inviare ai supermercati, alle reti di distribuzione. Quindi è chiaro che le esportazioni dei piccoli sono più occasionali, mentre i grandi si possono permettere di avere un costante flusso di esportazioni. Però io voglio ricordare che adesso noi esportiamo 200, e quest'anno forse oltrepasseremo i 200 milioni di litri annui, ed è triplicato nell'arco di 13 anni, quindi non so quanti settori abbiano visto triplicare la quota export. Quindi pur essendo un paese che tradizionalmente non è identificato come storico produttore di birra, ancorché si faccia ormai da 250 anni birra in Italia, adesso il 15% di quel che produciamo è esportato. I nostri problemi purtroppo sono più sul versante interno, adesso, come lei menzionava. Adesso ci arriviamo. Faccio notare che ci sono molti ascoltatori che mi scrivono dalla Gran Bretagna o sono stati in Gran Bretagna. Non posso citare i nomi perché serve pubblicità e a Radio 24 la pubblicità si paga. Però che, mi segnalano che nei pub dove sono stati, chi è a Liverpool, chi è a Londra, gli hanno offerto o la birra inglese, ale, vari tipi di ale, o alcuni dei più famosi marchi di birra italiana come offerta. Senta, tra l'altro l'Italia ha superato paesi come Austria, Danimarca, Irlanda, che uno pensa siano i colossi della birra. Siamo al decimo posto in Europa, siamo per carità staccati anche nettamente da Germania, Regno Unito e Polonia. Pochi si ricordano che la Polonia è il terzo più grosso produttore di birra in Europa. Allora, non è una radio di statale di promozione del sistema Italia, è Radio 24, e quando possiamo ci occupiamo dell'Italia, non solo che ha problemi, questo lo facciamo tutti i giorni, ma anche dell'Italia che va bene, lo dico all'ascoltatore che scrive in maniera un po' polemica, altri confermano quello che stiamo dicendo. Io non capisco questo masochismo che se parliamo di qualcosa che va bene c'è qualcuno che si lamenta. Ma volete sempre il 2 di novembre? Mi sembra che ne abbiamo avuti il 2 di novembre dal 2008 adesso, non so, non vi è bastato fare 5 anni di crisi? Se ogni tanto becchiamo anche qualcosa di positivo, ma baciamoci le mani. Restiamo lei invece, allora accontentiamo i due novembristi, perché un problema ce l'avete, è anche bello grosso. Le accise sono aumentate da fine 2013 adesso del 30%, Terzaghi. Molto limitato, perché fra l'autunno del 2013 e il gennaio 2015 sono aumentate del 30%. Ricordiamoci che poi addirittura l'accisa è soggetta a IVA, quindi abbiamo la tassa sulla tassa. Questo ha fatto sì che se si va in un supermercato e si compra una birra di larga diffusione, purtroppo l'incidenza delle tasse sul prezzo che acquistiamo, sul costo del prodotto che acquistiamo, è ormai arrivati quasi al 50%. Ed è per questo. Mi dica una battuta, i grandi colossi, ieri il gruppo Anheuser-Busch InBev ha lanciato un'OPA sulla rivale Sub Miller, che è il secondo maggiore produttore di birra, vuole creare un colosso da 275 miliardi di dollari, quasi 250 miliardi di euro. Questo vi preoccupa o sono cose, diciamo, astrali per noi e continuiamo? No, ha detto bene, l'aggettivo utilizzato da lei è perfetto, per me è astrale, cioè io, a parte che mi occupo di tutte altre cose che non hanno nulla a che vedere con la finanza, ma con il prodotto e con le fabbriche che lo producono, gli artigiani che lo producono, è veramente a una distanza siderale da quel che faccio io. Sono cose di alta finanza che viaggiano fra New York, Londra o dove sono quotate. Sì, fermo restando che InBev e Sub Miller, che in questo momento sono ancora distinti, l'OPA è di InBev su Sub Miller, hanno anche marchi italiani, nel senso, non è che, cioè, abbiamo anche, ma io ripeto a chi mi scrive, non mi interessa se siano i grandi marchi appartenenti a multinazionali o i piccoli birrifici, che pure si sono fermati, erano triplicati da 186 a 443, mi basta che vengano prodotte in Italia con manodopera italiana, con valore aggiunto in Italia, con fornitori italiani. Baciamoci i gomiti, non le mani, mi scrive un ascoltatore, non male, l'ho capita adesso, un po' in ritardo, ma l'ho capita. Baciamoceli, non alziamoli i gomiti. Grazie anche a Filippo Terzaghi, direttore della Sobirra, e adesso per le vestali di Focus Economia, dopo GR24 parliamo di cifre pesanti, anche queste, mi dispiace per i due novembristi, positive sulla crescita economica quest'anno. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, la pecora nera di Sara Tardelli e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 8 minuti, non immaginavo, e ammetto la mia ignoranza, che il tema del grande successo dell'export italiano di birra ricevesse così tanti messaggi. È chiaro che l'operazione annunciata ieri, dove il leader mondiale del settore bevande analcoliche, che è Anheuser-Busch InBev, lancerebbe un'OPA sulla rivale Sub Miller, sì, confermo che Sub Miller ha dei marchi anche italiani, tra cui il più noto è il marchio Peroni. Sub Miller è un colosso fondato in Sudafrica addirittura a fine dell'Ottocento, e mentre InBev ha marchi mondiali, cito solo i più famosi, Bud, Corona e Beck's, ma non era solo di questo. Certo che si creerebbe un colosso da 250 miliardi di euro di capitalizzazione. Andiamo avanti, però parliamo di borsa, e oggi la giornata, devo dire, si può archiviare con il più 0,18% di Milano e il più 0,20% di Parigi, l'invariato sia 0,02% di Francoforte, meno 0,60% Londra, l'America invariata. A me sembrano tutte borse in attesa di capire, visto che mai come questa volta le ipotesi sono a metà tra chi pensa che la Fed alzerà i tassi e chi invece ritiene che non li alzerà. Borsa alla finestra, si dice in questo caso. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Confermi alla finestra? Confermo. E allora andiamo sui titoli. Autogrill più 4,91. Sì, in questo caso diciamo che quello di Autogrill è la performance migliore sul FTSE MIB milanese. Gli investitori hanno apprezzato le indicazioni dell'amministratore delegato Gianmario Tondato, soprattutto sull'andamento del mercato italiano. Tondato si è reso soddisfatto dell'andamento e ha parlato di un anno migliore dei precedenti, arrivando a dire che l'Italia è tornata a crescere a un passo diverso dopo 4-5 anni di declino. Naturalmente questo premia il titolo, che ha in Italia un mercato molto forte, e inoltre anche gli ultimi dati sugli Stati Uniti sul traffico aereo sostengono il business della società, che quindi oggi è stata premiata dagli investitori. Ancora tre titoli: Moncler più 2,26, Atlantia più 2, Pop Milano più 1,50%, Exor più 1,30, Buzzi Unicem più 1,20, come Banco Popolare l'1% lo guadagna Mediaset, lo 0,90% il titolo Luxottica. Sì, vedo anche i messaggi, confermo che Gianmario Tondato Ruoso ha detto che il 2015 sarà l'anno migliore degli ultimi 5 anni, anche lui sottolinea, senza che questo voglia dire che siamo fuori dalla crisi, come mi chiede qualcuno, che il 2015 per l'Italia sarà un anno migliore del precedente, soprattutto degli ultimi 5 anni. Ora, Autogrill, da sempre noi segnaliamo che è un indicatore, proprio l'attività che svolge, dei consumi interni, pazzesco, cioè nel senso che uno decide la sua spesa, che non è una spesa obbligatoria, l'Autogrill, anche in base alla disponibilità d'acquisto. Anni fa lanciamo l'idea, poi non se ne fece nulla, di usare un indice, un po' come l'indice Mac che usa l'Economist per l'andamento delle vendite all'Autogrill. Andiamo avanti, Atlantia, bene, lì ci sono dati sul consumo di carburante, no? Esattamente. E il traffico autostradale, che si lega in qualche modo anche ad Autogrill, prego. Certo, esattamente, con i consumi di carburante in agosto, dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, appunto secondo gli analisti rafforzano l'aspettativa di un aumento appunto del traffico anche nel terzo trimestre dell'anno, e quindi di conseguenza naturalmente del business di Atlantia e anche di Autogrill, come ricordavi tu. Allora, ancora per quello che riguarda i titoli peggiori invece, Popolare Emilia Romagna. Sì, diciamo che le banche oggi sono state un po' in ordine sparso, la peggiore è stata proprio Popolare dell'Emilia Romagna, che ha perso quasi il 2%, e diciamo che ieri l'amministratore e delegato Alessandro Vandelli ha gettato molta acqua sul fuoco della speculazione, soprattutto in vista di eventuali operazioni straordinarie, e ha rimandato tutto, sia eventuali fusioni sia la trasformazione in SPA a 2016 ben inoltrato. Quindi diciamo che chi aveva comprato aspettandosi magari annunci più a breve termine, oggi ha preferito vendere il titolo. E ancora Monte dei Paschi meno 1,50%, ce n'è anche Industria meno 1,1%, Eni meno 0,70% come Telecom e Unipulsai, ma anche Enel perde lo 0,70%, euro a quota 1,13, tra i migliori e peggiori in assoluto E.ON più 7,5%, Kedos più 7,20% e appunto Autogrill. Fronte opposto Gala meno 9,90%, Novare meno 5,40%, Notorious Picture meno 4,90%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso andiamo verso il traffico e poi raccontiamo le nuove stime di Confindustria. Qualcuno mi scrive già: ma è veramente merito del governo o dei fattori esterni? Guardate che su questo l'opinione è abbastanza chiara: sono soprattutto i fattori esterni, prezzo del petrolio in primis, ma anche euro più debole e tassi di interesse ai minimi, a dare una mano all'economia anche italiana. Il che non vuol dire negare che gli effetti che iniziamo a vedere positivi del Jobs Act o della decontribuzione, ma ricordare per oggettività e onestà intellettuale che il grosso del lavoro l'hanno fatto variabili esterne, non variabili interne. Comunque, traffico prima. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta Focus Economia. Allora, al di là di chi inveisce contro questa sottospecie di ripresa, io dico meglio un po' di ripresa che niente, certo che non basta. Allora, il Centro Studi di Confindustria ha rivisto al rialzo la stima, portandola per quest'anno all'1% del PIL, l'anno prossimo 1,5%. La revisione al rialzo è soprattutto per quest'anno, dal precedente 0,8 si va all'1%, l'anno prossimo dall'1,4 si andrà all'1,5%. Su questo, proprio per anche tagliare la testa a ogni tipo di finta illusione, polemica, di qual era, il presidente di Confindustria Squinzi ha detto: attenzione, è un buon inizio, è un buon risultato, ma dobbiamo puntare più in alto, almeno al 2% di crescita del PIL. Credo che il nostro paese possa rapidamente e sicuramente riprendere il ritmo di crescita del 2%, che è quello che poi è necessario per ritrovare una crescita vera nell'occupazione, una crescita determinata da un aumento delle proprie capacità di stare sui mercati, e questo è che poi è la crescita più solida, perché le crescite determinate da incentivi specifici, settoriali eccetera, sono poi sempre delle misure che hanno degli effetti tampone, un effetto nel tempo abbastanza limitato. Ecco, questo io credo che sia la ricetta che noi chiediamo al governo. Siamo confidenti che questo governo possa darci questo ritorno, e molto ci aspettiamo dalla legge di stabilità. Così dunque il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Però vorrei tornare sullo scenario, insomma la notizia è chiara, anche il Centro Studi Confindustria rivede al rialzo la stima, dico anche perché lo ha già fatto il governo due giorni fa, lo 0,9, e ieri l'Ocse lo 0,7, la prospettiva, ripeto, del Centro Studi Confindustria è quella più favorevole in questo momento, più 1% quest'anno e 1,5% l'anno prossimo. E tra l'altro il miglioramento è più forte proprio nel 2015, dallo 0,8 si va all'1% che nel 2016, dove dall'1,4 si va all'1,5%. C'è una frase da cui vorrei partire con Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Buonasera Luca. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Lo chiarisco perché ogni tanto me lo chiedete, noi diamo sempre del lei e non farei eccezione a Luca Paolazzi se non fosse un collega del Sole 24 Ore e ho difficoltà a dargli del lei, non è per mancanza di rispetto. Allora, voi scrivete, citate un biennio di recupero, ma la cosa che fatto anche porre alcune domande ai nostri ascoltatori, in uno scenario economico che durante l'estate è mutato e che nel complesso risulta più favorevole. Ora le domande che vedo sono: ma come, ci avete appena raccontato di un'estate in cui il Brasile ufficializza la sua recessione, la Cina crescerà meno del previsto, la Russia è in estrema difficoltà, l'India pure cresce meno del previsto, cioè è la grande frenata dei BRICS, e voi dite che durante l'estate lo scenario è mutato in maniera più favorevole. Dove? È la caduta dei prezzi del petrolio è l'elemento chiave, nel senso che noi prevedevamo a giugno un petrolio a $62 quest'anno, $70 l'anno prossimo. I dati che sono oggi disponibili ci dicono che difficilmente salirà rispetto agli attuali valori, quindi rimane intorno ai $50. Questo dà per l'anno prossimo uno 0,2 in più di crescita, non incide su quest'anno. Nel nostro scenario ovviamente teniamo conto della grossa frenata del commercio mondiale che deriva proprio da quello che tu dicevi poco fa, cioè da un andamento dei paesi emergenti più faticoso, se non proprio peggiore, di quello che ci si immaginava 4 mesi fa. Teniamo conto che come Centro Studi Confindustria abbiamo sempre avuto un atteggiamento prudente nell'indicare la crescita cinese e degli altri paesi, per noi la Russia e il Brasile erano già in recessione, il fatto nuovo è che rimarranno in recessione anche l'anno prossimo, la Cina siamo sempre stati, nel senso che da qualche anno diamo previsioni di crescita inferiori ai target di governo e più bassi di quelli degli altri previsori. A questo punto le indichiamo più 6% l'anno prossimo, però tutto questo non compensa pienamente l'effetto petrolio. Mi viene da dire, per tanti anni noi abbiamo pagato un prezzo allo sviluppo dei paesi emergenti attraverso materie prime molto più care, e noi siamo un paese trasformatore, quindi compriamo all'estero tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E adesso il rallentamento di quegli stessi paesi, oltre a un eccesso di produzione in una molteplicità di input che vanno dal petrolio ai metalli non ferrosi, al grano e altri, fanno sì che abbiamo uno sconto, e questo ci aumenta il potere d'acquisto, ci aumenta il reddito. È un fattore eccezionale, un fattore una tantum, però bisogna tenerne conto. Vorrei aggiungere solo una cosa riguardo all'aggiornamento, cosiddetto aggiornamento delle previsioni. Il governo domani indicherà le sue stime riguardo a quest'anno e il prossimo. Il premier Renzi ha indicato un più 0,9 per quest'anno, l'anno prossimo non so dove lo metteranno. Teniamo conto che noi abbiamo già un acquisito nel primo semestre di più 0,7, a cui va aggiunto circa un decimo di punto abbondante per 3 giornate lavorative in più, quindi siamo già più 0,8. Se chiunque stima, diciamo, una crescita l'anno prossimo anche solo di 1,3-1,4, deve immaginare una seconda metà di quest'anno con delle variazioni positive, perché altrimenti non fai il risultato l'anno prossimo, perché non hai il trascinamento, lo slancio necessario a fare il risultato l'anno prossimo. Se immagini quindi un secondo semestre con qualche incremento, inevitabilmente vai allo 0,9 o all'1%. Aggiungo noi, e questa è una questione puramente aritmetica, di coerenza tra, diciamo, una stima di quest'anno, diciamo, dell'1 e una stima dell'anno prossimo, che può stare in un range tra l'1,2, l'1,5, l'1,6, a seconda di quello che uno pensa che accadrà. Poi è chiaro che uno, se invece mette 0,7, per coerenza l'anno prossimo dovrebbe dire 0,1, o 0,5 o 0,2, ma non un altro 1,3%, perché non c'è coerenza matematica che tenga per combinare questi due, questo binomio. La seconda cosa è che noi pensiamo che l'accelerazione sia in corso, nel senso che abbiamo una serie di elementi che riguardano gli effetti ritardati della svalutazione del cambio, della riduzione dei tassi di interesse e della riduzione della bolletta petrolifera, parlo solo di quella petrolifera, quest'ultima vale 21 miliardi a prezzi cambi correnti per l'Italia all'anno di risparmio, che si esplicano nel corso del tempo, non si scaricano tutti immediatamente e quindi ci sono degli effetti ritardati di questo tipo. Ci sono indicatori qualitativi di fiducia, di responsabili acquisti delle aziende che dicono che nel terzo trimestre è andata meglio del secondo trimestre, e ci sono fattori come il successo di Expo che macroeconomicamente è limitato, però dà un senso di risveglio della voglia di spendere del paese, e tutto questo ci dice che c'è una diffusione, un'accelerazione in corso, per cui appunto andiamo all'1% quest'anno e possiamo scrivere un 1,5% l'anno prossimo. L'anno prossimo. Allora, sì. Poi chiaramente c'è un rischio enorme che si chiama Cina, che è il primo motore della crescita mondiale. Se la Cina invece che fare 6% fa 4%, l'anno prossimo andiamo all'1, ecco. Luca Polazzi, visto che commenteremo stasera la decisione della Federal Reserve, tu citavi il caso della Cina come fattore che, se frena troppo, non è più un vantaggio ma appunto un elemento di debolezza. Non hai citato la Banca Centrale Americana e quindi quello che potrà essere la decisione della Fed stasera sui tassi. Immaginando, perché le opinioni sono divise a metà esatta, ma immaginando che la Fed inizi un rialzo modesto, graduale, dello 0,25%, questo può cambiare lo scenario o no? No, nel senso che noi abbiamo inglobato un aumento nella parte finale di quest'anno e altri tre aumenti l'anno prossimo. Incide su che cosa? Incide sui nostri tassi di interesse? Risposta no, perché c'è il quantitative easing della Banca Centrale Europea, quello in essere e quello che verrà, perché chiaramente se dovessero cominciare a salire i tassi di mercato nell'area dell'euro, con un'economia che rimane tutto sommato debole e un'inflazione che, e questo va sottolineato tre volte, rimarrà ben lontana agli obiettivi della BCE, i tassi nostri rimarranno bassi. Attraverso un apprezzamento del dollaro, beh, ma questo ci favorisce, non è che ci penalizza. Attraverso una fibrillazione maggiore dei mercati, peggiore di quella che abbiamo visto quest'estate, non saprei dire, francamente. E credo che una cosa graduale, ma che dia certezza di movimento, aiuti casomai i mercati finanziari piuttosto che ancora stare lì appesi a capire se aumenta, non aumenta, quando aumenta, quanto aumenta. Ultima domanda che ho per te, il fatto che ormai voi lo stimiate all'uno, dico io, questa è la mia opinione, è anche prudenziale, nel senso che basta poco per fare 1,2 e 1 o 1,3 con quello che è stato acquisito, cambia le prospettive del governo sul fronte del deficit. Noi ricordiamo sempre che il rapporto deficit-PIL che interessa l'Europa è un rapporto, e quindi deficit fratto PIL. Se questo PIL cresce un po' di più, è da lì che il governo può attendersi anche qualche margine, oltre alla trattativa con l'Europa, qualche margine in più sul deficit? Ma paradossalmente la risposta è negativa, nel senso che se bastasse il PIL reale, allora sì. Il problema è che quello che conta per le entrate pubbliche è il PIL nominale. Cioè, tu quanto fattura il paese, sulla base di quello incassi IVA, imposte dirette, eccetera. Questo è il punto nodale, il punto principale. Lo scenario che noi abbiamo davanti è uno scenario in cui appunto la dinamica dei prezzi rimane molto contenuta, tant'è vero che rispetto alle stime che avevamo a giugno abbiamo alzato la crescita reale, ma il PIL nominale, la crescita del PIL nominale è più basso, di uno 0,2% quest'anno e di uno 0,2% l'anno prossimo, quindi da lì non viene un grande margine di risorse per il governo, purtroppo. Grazie, molto chiaro, insomma, una buona notizia, ripeto, a mio avviso anche molto cauta la stima. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. Grazie a voi e buona serata. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Mi sembra più che chiaro che la maggior parte dei fattori sono fattori esterni, non fattori interni. Purtroppo vorremmo vedere anche i fattori interni. Comunque, non lamentiamoci sempre. Con questo invito auguro a tutti buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.